Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Mattino. Good morning Europa! Ehi, non è una prova questa! Dateci i soldi, ma controllateci, perché noi abbiamo già fatto 100 miliardi di nuovo debito e non abbiamo concluso nulla. Non è che gli altri non ci vogliono aiutare, è che non vogliono buttare via i soldi, non vogliono dare dei soldi a dei mano, a dei farabutti che dopo li sperperano come è sempre stato fatto e non vadano al buon fine per aiutare il popolo e la nazione Italia. È brutto dirlo, ma questo è il nostro problema, la nostra classe politica, non solo quella attuale, ma quella che fino adesso ci ha portato a questo disastro. Sui Paesi Bassi diciamola tutta, perché non solo vogliono verificare come andremo a spendere i denari ricevuti, ma vogliono anche che, prima di inviarli in Italia, sia attuato un pacchetto di riforme che sia di loro gradimento. Quindi ci trattano un po' da alunni indisciplinati. Oh, in questo coro, tranne forse l'ultimo ascoltatore che ha un po' una via di mezzo, mi mancano gli anti-olandesi. Non ne arrivano, mi dice Miriam Lucchetti. Oh, fatevi sentire, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, giusto per il piacere del dibattito, per carità, non per dare ragione all'uno o all'altro. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Come sapete, lunedì 20 luglio sono le 7, 19 minuti e 54 secondi. E devo dirvi la verità che mi aspettavo questa mattina di trovare dei giornali già vecchi. E in realtà non lo sono, perché, come avete sentito anche da GR24, la conclusione dei lavori del Consiglio europeo è rimandata all'incontro di oggi alle 16 e chissà quanto ancora si andrà avanti nel corso della giornata. Sembra chiara però l'intenzione di chiudere oggi. Dunque, i giornali non sono vecchi e rappresentano bene in varie forme i nodi che ci sono e con visioni diverse. L'Europa rischia tutto e Conte attacca Rutte, non superare il limite è il titolo della Stampa. L'Europa gela l'Italia, tagliati gli aiuti è la lettura che ne dà il quotidiano nazionale. Fondi europei ridotti per l'Italia, dice più freddamente il Messaggero nel suo titolo di apertura. Al vertice europeo, ultima trattativa sui sussidi a fondo perduto, anche qua freddamente il Sole 24 Ore, in un numero che insolitamente il lunedì, solitamente un settimanale, un numero un po' più freddo. Oggi il Sole 24 Ore, tra l'altro, con molti elementi interessanti, tra cui ci arriveremo tra poco con Paolo Mieli, un bel commento di Attilio Geroni. Sole 24 Ore che appunto invece si dedica proprio alla trattativa sui fondi europei. Si tratta tra i sospetti per l'accordo, secondo il Corriere della Sera. La Repubblica descrive un'Europa lacerata nel suo titolo di apertura. Il Fatto Quotidiano fa un gioco di parole, insomma. Basta un Rutte a suicidare l'Europa, poche ore per vivere o morire. Libero la mette così e dà quasi ragione agli olandesi. L'Italia ha molti soldi, ma li dà ai fannulloni. La Verità si dedica ad altro. Ah, scusate, no, sempre sul tema il giornale c'è. Tante tasse, niente Europa, nessuna proroga. Oggi inizia la stangata. Intanto a Bruxelles, dopo tre giorni, non c'è un'intesa per i fondi ai paesi in difficoltà. La Verità si dedica altro ai migranti, liberi di scappare dai centri, da nord a sud, allarme per gli infetti. Sull'Europa il titolo è Conte prende schiaffi e dà la colpa a Salvini. Il Foglio, che il lunedì è sempre un po' diverso dal solito, qua appunto un numero un po' freddo, c'è un commento del direttore Claudio Cerasa sulla questione dei soldi europei, ma il pezzo di apertura è di Federico Ronchetti, che è dottore di ricerca all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, contro gli stregoni del no 5G, altamente suggerito. Arriveremo tra un attimo a tutti i temi europei, ai temi politici, a questo sondaggio di Repubblica che dà Giuseppe Conte come il premier più amato tra tutti quelli che si sono succeduti negli ultimi anni. Supera Berlusconi, supera Prodi, supera Letta, supera Renzi, supera tutti. Parleremo di questo e verremo alle questioni politiche. E però consentitemi di partire, come sempre, in questa prima parte della rassegna stampa da qualcosa d'altro. E questo qualcosa d'altro è una delle cose sulle quali vi ho sollecitati prima, nella prima parte della trasmissione, e che sarà un punto sicuramente di discussione, non solamente nel paese, ma anche all'interno della maggioranza di governo. Ed è questa proposta della quale ci parla il Messaggero a pagina 13 che il ministro della giustizia Alfonso Bonafede vuole portare sul tavolo della maggioranza, registrando già qualche perplessità tanto da Italia Viva quanto dal Partito Democratico. E qual è la proposta? La proposta è che il cellulare diventi un aggravante in caso di omicidio stradale, al pari, l'uso del cellulare ovviamente, al pari della guida in stato di ebbrezza. L'allora premier Renzi, racconta Emilio Pucci, si batté per due ragazzi fiorentini, Lorenzo e Gabriele, vittime di un pirata della strada. L'attuale guardasigilli Bonafede prende ad esempio invece la tragedia dell'11 luglio del 2019, quando a Vittoria, in Sicilia, due cuginetti di 11 e 12 anni persero la vita travolti da un SUV a tutta velocità. L'omicidio stradale è diventato un reato a sé il 2 marzo del 2016, lo ricorderete. Con l'articolo 589 bis non è stata modificata la pena per chi cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme, pena che però appunto è stata aumentata da 8 a 12 anni per chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave. A distanza di più di 4 anni il ministro della giustizia vuole imporre un'ulteriore stretta. Ha convocato per oggi pomeriggio a Via Arenula un tavolo di maggioranza per chiedere un veloce via libera ad un disegno di legge ad hoc. La novità rilevante appunto è che nel reato di omicidio stradale diventa un aggravante anche l'uso del cellulare alla guida, ovvero l'utilizzo di appare, poi questo è il linguaggio della legge italiana, l'utilizzo di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore. Dunque guidare al telefono in caso di omicidio stradale sarà considerato un aggravante, così come la guida in stato di ebbrezza. Quali sono i dubbi all'interno della maggioranza? Non va nella direzione auspicata da Italia Viva. L'aggravante dell'uso del cellulare in macchina, osserva per esempio il renziano Cucca, è una stupidaggine, impossibile verificarlo, meglio trattare con le case automobilistiche per inserire delle scatole nere. Perplessità arrivano pure dal PD, disponibile solo ad interventi chirurgici, ma non ad appoggiare provvedimenti populisti. Il Movimento 5 Stelle insisterà e sarà un altro, forse per carità, potrebbe essere un altro braccio di ferro. Chissà che ne pensate voi di questa cosa, se volete ditecelo anche via WhatsApp audio, SMS, WhatsApp, quello che volete. C'è una storia che ci racconta, e visto che nel parlare lungamente della vicenda autostrade, nel parlare lungamente della vicenda all'Italia, forse abbiamo lasciato un po' sotto traccia il grande caso industriale di questi anni, che è l'acciaieria di Taranto, l'Ilva, c'è un caso incredibile, non incredibile, però insomma, che dà un po' l'idea di come le cose si stiano avvitando anche dal punto di vista giudiziario. Ce la racconta a pagina 5 del Fatto Quotidiano Giampiero Calapà. Taranto senza pace. Sull'ex Ilva parte l'indagine sulle indagini. Questo è a rendere un po' più confusa una vicenda già complessa nella sua soluzione dal punto di vista industriale. L'ex Ilva di Taranto continua ad avvelenare l'aria e il marcio non finisce mai di emergere. L'ultimo capitolo è l'indagine della Procura di Potenza, retta da Francesco Curcio, sugli ex PM titolari dell'inchiesta sull'inquinamento dello stabilimento Mostro, a partire dall'ex procuratore capo di Taranto Carlo Maria Capristo. La notizia non è un fulmine a ciel sereno per Angelo Bonelli, storico leader dei Verdi, che già su questa cosa aveva contestato. E perché? Perché il procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo, alle riunioni in procura sulla richiesta di patteggiamento nel processo Ambiente Svenduto, così si chiamava, partecipava anche l'avvocato Piero Amara, il quale è coinvolto nel processo ENI, inchiesta che coinvolse il 2 luglio anche il procuratore Capristo. E dunque la procura di Potenza apre un'indagine sulle indagini a Taranto senza pace. E visto che siamo in tema di burocrazia, c'è un problema. In questa giornata, che è la giornata, lo abbiamo raccontato ampiamente la settimana scorsa, e poi tra poco ci torneremo perché è sicuramente uno dei temi di dibattito non solamente politico, ma all'interno delle forze economiche e sociali di questo paese, torneremo sul tema delle tasse. Beh, c'è un problema anche con la cassa integrazione. Non solamente quella che non arriva, ma l'inghippo burocratico che impedisce di richiedere la nuova tranche di cassa integrazione. Lo racconta bene La Stampa con Claudia Luise a pagina 5. Un pasticcio burocratico, l'ennesimo, rischia di vanificare le buone intenzioni. Il governo aveva promesso pagamenti più veloci per la cassa integrazione, ma un cavillo sta mandando in tilt i consulenti del lavoro. E l'anticipo del 40% che l'INPS dovrebbe versare ai lavoratori entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, uno strumento voluto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per aiutare milioni di cittadini in crisi di liquidità, nella maggior parte dei casi è rimasto al palo. Perché? Perché l'INPS sta respingendo le richieste. Il motivo è tecnico. Allora, vediamo se riusciamo a farlo capire. Ci vorrebbe uno schemino, però siamo in radio e cerchiamo di descriverlo così. Una volta terminate le prime 14 settimane di cassa integrazione, è possibile chiederne 4 aggiuntive. In attesa dell'autorizzazione c'è l'anticipo. Il problema è sorto nel conteggio delle settimane. I datori di lavoro escludono la domenica dalle richieste, essendo festivo. Ma così facendo, per l'INPS i giorni a disposizione non sono totalmente esauriti. E questo in automatico blocca la domanda per le settimane successive. Ma cavoli, domenica è un festivo. Si spera che all'INPS lo sappiano. È una situazione impossibile. Nessuna azienda ha chiesto la cassa integrazione per un giorno festivo, attacca Luisella Fassino, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino. Per darvi un'idea di come funziona, i professionisti raccontano che le disposizioni uscite tra marzo e luglio, nel loro complesso, non solamente quelle sul lavoro, rinviano a circa 1000 atti normativi. Si cita anche un regio decreto del 1910, misure più corpose di una legge di bilancio. Visto che abbiamo sentito, no, la Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, su Torino rimaniamo perché ci si dedica Giacomo Susca in prima pagina sul giornale le incredibili, le pazzesche regole Covid. Eccole qua. Occhi aperti, ma guardate il finestrino. Per sconfiggere definitivamente la minaccia del virus non bisogna abbassare lo sguardo, semmai occorre fissare il finestrino. Questa fase 3 si arricchisce ogni giorno di regole e di perle creative. Prendete le ultime disposizioni del gruppo torinese Trasporti. Si allentano le norme sul distanziamento orizzontale, nel contempo si incrementa il distanziamento verticale. In parole semplici, è consentito, come si sente ripetere da mesi dai manovratori del carrozzone governativo, a un numero maggiore di passeggeri di salire sui mezzi pubblici, a patto che non stiano uno di fronte all'altro appiccicati. Fermo restando l'obbligo di mascherine e di posti alternati, ai pendolari è richiesto di fare attenzione a chi si ha di fronte per non ritrovarsi faccia a faccia in un incontro ravvicinato del Covid tipo. Come se non fosse già un'impresa su un tram o una metropolitana incrociare lo sguardo di qualcuno che non l'abbia incollato al telefono più raramente su un giornale. Insomma, aprite gli occhi, però niente ammiccamenti per salutare i compagni di viaggio. Così spunta pure l'obbligo di guardare vetrate e finestrini, tutti girati di schiena lungo il tragitto quotidiano dalla periferia al centro e viceversa. Moderni flaneur, non per romantica scelta, ma per paura di un contagio di ritorno. una pausa. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Franchi olandese, eccolo qua. I soldi delle tasse della Fiat li prendono. Però per mollare qualcosa, vediamo come stanno facendo. Alessio Savona. Oh, ve l'avevo chiesto, eh. Avevamo troppi pro-rutte. Ci voleva un riequilibrio dall'altra parte. Caro Paolo Mieli, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno. Oggi diamo subito la notizia, al Sole 24 Ore, pur essendo il lunedì che c'è un numero precotto, in genere molto ben fatto, un numero prezioso da conservare, però oggi, data l'emergenza europea, il Sole 24 Ore ha fatto un numero eccellente, ma d'attualità, anzi. Sì. Meglio d'attualità, e il punto credo che lo conosciate tutti perché avete sentito i giornali radio. Ancora un giorno di trattativa oggi pomeriggio, sì. Verso le 4 del pomeriggio riprendono le trattative, credo a naso che dovrebbe essere il giorno conclusivo. Ci sono dei confronti fra il premier olandese e quello italiano in atto, e si è, mi sembra, perché qua è sempre meglio non sbilanciarsi troppo, mi sembra che si avvicini a un accordo, e quindi domani ognuno di questi leader potrà vietare nel suo rientrare nel suo paese, così alzando le bandiere, dicendo io ho combattuto. E sicuramente il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte non ne esce male, ecco, sì, perché è stato uno dei protagonisti, invece di essere lì con il cappello in mano a chiedere pietà e sovvenzioni al resto dell'Europa, è stato un combattente, si è visto anche quello, anche Rutte, sì. Biasimato dall'ascoltatore, si è comportato con pari dignità, insomma uno scontro interessante. E io vedo gli articoli del Sole 24 Ore, sì. Per raccontare tutto, quello di Beda Romano, l'Europa è perfetto, direi. Ancora sui sussidi. Decisamente, tra l'altro dicevo poco fa, Paolo, leggendo le aperture dei quotidiani, i titoli di apertura dei quotidiani, che il vantaggio è che, essendo rimandato il confronto alle 16, in realtà i giornali sono ancora buoni, cioè si pensava che raggiungessero un accordo nella notte, ma l'accordo non l'hanno raggiunto. E tra gli altri, fammi segnalare il commento di Attilio Geroni, sempre sul Sole 24 Ore, il quale sottolinea un punto importante. Dice: lasciamo da parte questo ragionamento Rutte contro l'Italia, perché il vero obiettivo dell'Olanda non è l'Italia, ma l'asse franco-tedesco, e quindi è più una mossa di politica europea, di politica interna europea, che una mossa anti-italiana. Anche perché fino all'altro ieri la Germania è stato il paese capofila dei paesi rigoristi, nel senso che mandava avanti i paesi rigoristi, ma poi era la Germania che ne tirava le reti e faceva la battaglia, la parte finale della battaglia, no? Mandava prima avanti Fanti, poi interveniva la cavalleria, e la cavalleria era tedesca, e portava a casa il risultato. Invece in questa trattativa si è vista una Germania diversa, nel senso, appunto, l'asse franco-tedesco è un asse franco-tedesco, ma investe, come da una foto che è venuta fuori ieri, investe anche la Spagna, investe anche l'Italia, e Ursula von der Leyen è nettamente dentro questo equilibrio. Quindi si è creata, questo lo segnalano tutti, anche Romano Prodi sul Messaggero e sul Mattino, segnalano tutti che sta venendo fuori un'Europa diversa, perché poi la battaglia dei paesi frugali o rigoristi, chiamali come vuoi, sì, è una battaglia di minoranza però significativa, sì. Però io non la sottovaluterei, nel senso che molti dei loro argomenti sono argomenti che reggono, sì. E quindi quando si raggiungerà un accordo ci saranno soldi anche per l'Italia, soldi che arriveranno tardi, però questo si capisce, perché non sono soldi che arriveranno entro la fine dell'anno, ma a partire dal 2021, sì. Inoltrato, ecco, sì. Diciamo, a partire dal 2021 è inoltrato, e quindi questo è messo in rilievo da molti altri commenti, e quindi si riapre per quello che riguarda il nostro paese la partita del MES, nel senso che quei soldi sono pronti subito, quelli del fondo sono bastati, che sono soldi in prestito, che sì, tutto quello che abbiamo detto, è lo strumento disponibile immediatamente. Ti porterei, Paolo, a questo punto su vicende più strettamente italiane. Innanzitutto il fatto che, come molti giornali segnalano, oggi è il giorno, e come la settimana scorsa abbiamo trattato lungamente qua a 24 mattino, oggi è la giornata delle scadenze fiscali, 51 scadenze fiscali nel complesso solamente nella giornata di oggi, e un governo che decide di non rinviare ulteriormente, esattamente per motivi di cassa, cioè per necessità di incassare denaro, no? Sì, questo è infatti il titolo di testata del giornale: tante tasse, niente Europa, nessuna proroga, oggi inizia la stangata, intanto a Bruxelles dopo 3 giorni non c'è un'intesa per i fondi ai paesi in difficoltà. E effettivamente questo primo shock fiscale, io esagero con le parole, questo primo shock fiscale farà scendere l'Italia coi piedi per terra, perché fino a fino a sabato, la domenica ci si è riposati, poi ne parleremo di come ci si è riposati la domenica, ma metterà le famiglie, tutti coloro che dovranno pagare le tasse, le metterà a confronto con la dura realtà che di qui all'autunno sarà la realtà. Ovviamente sui giornali ci sono ancora polemiche per quella dichiarazione della viceministra Castelli che ha detto che i ristoratori bisognerebbe, ecco, lì è stata forzata la povera ministra Castelli, nel senso che lei non ha detto se non hanno affari chiudano e se ne vadano da un'altra parte, non è stata così brutale, ha detto quando dei ristoranti dovessero chiudere dobbiamo trovare il modo di aiutare questi ristoratori a cambiare mestiere. I ristoratori rispondono, ci sono rivolte anche qui sul giornale, non so di cosa parla, noi vogliamo continuare a fare i ristoratori, non ci interessa che la Castelli ci aiuti a trovare altre strade, queste sono sciocchezze, sono degli incompetenti. Discussione aperta su questo. Ultima cosa sulla quale ti voglio portare su questo fronte politico, molto rapidamente, Paolo, perché dobbiamo andare al traffico, è il sondaggio di Repubblica, pagina 7, che è veramente lusinghiero per il Presidente del Consiglio, perché dice che secondo gli italiani è stato il miglior Premier dal 1994. Sì, mi butta tutti nel calderone, però di Berlusconi. Tutto ciò che c'è stato dalla Seconda Repubblica in poi, il primo è Conte, il secondo è Berlusconi, il terzo è Prodi, il quarto Gentiloni, Letta, Monti, Renzi fra gli ultimi, Amato, D'Alema, ecco, Lamberto Dini è il fanalino di coda, però Berlusconi si aggiudica anche la medaglia d'oro del peggiore, perché i primi tre peggiori sono, secondo questo sondaggio di Ippo Diamanti, Silvio Berlusconi, Mario Monti e Matteo Renzi, e Conte è quinto fra i peggiori dopo Romano Prodi, c'è anche Romano Prodi. Direi che ne può essere, che Giuseppe Conte ne può essere soddisfatto di questo sondaggio. Secondo me si sta creando un fenomeno Conte, nel senso che anche in assenza dei suoi partiti di riferimento, che non hanno leader, non sono in un momento di difficoltà sia il PD che i 5 Stelle, ancor più i 5 Stelle, esiste la destra in Italia, e poi come uomo di riferimento per tutto ciò che non è Salvini, Meloni, Berlusconi, esiste solo Conte. Conte sta crescendo in questi sondaggi. Traffico. Mattino. Allora Paolo, passerei alla parte Covid. La parte Covid oggi è quasi più importante del vertice europeo, perché in realtà i contagi crescono a dismisura in tutto il mondo, adesso sono al ritmo di 260.000 al giorno, mal contati, i che significa che ogni 4 giorni sono 1 milione più. Attualmente sono 14 milioni e mezzo, ma se si va avanti di questo passo arriveremo a 20 milioni, 30 milioni, non so quanti, ed è davvero consistente. Tra l'altro l'America sta nel marasma, crescono tutti nei sondaggi, cresce molto Biden, e Trump ha fatto una dichiarazione che ha un po' allarmato l'America, perché ha detto che lui, nel caso fosse sconfitto, contesterà questa sconfitta, perché a lui il voto elettorale per posta non lo convince, un voto che non, insomma, in cui non crede, insomma una dichiarazione di quelle allarmanti fatte molti mesi prima del 7 novembre, quando si voterà. Però nel contempo in Italia c'è anche qui un record: per la prima volta da febbraio Milano, la Lombardia, non ha neanche un morto, i morti sono pochissimi, i contagi sono pochissimi, e qui c'è una riflessione a cui non è stata data ancora risposta, perché l'Italia ha rotto le righe, è sì, chiaro, no? Dopo da un mese a questa parte, l'abbiamo già notato, no? Le spiagge, le piazze, insomma si fa fatica a tenere gli italiani a casa, vanno, festeggiano, si tuffano, ma quella è la cosa meno contagiosa, tuffarsi, e però non aumentano i contagi in Italia, ci stanno scendendo come se fossimo in pieno lockdown. Che significa? Io non so dare una risposta. I virologi raccontano, virologi, epidemiologi raccontano delle cose contraddittorie, però questo è un dato di fatto che ci rende diverso da molti altri paesi. Forse sarà perché ci sono i raggi ultravioletta, se non voglio avventurarmi. Sì, no, per carità Paolo. Non sono uno scienziato, però questo è un dato che vedrai che nei prossimi giorni. Sarà sicuramente uno spunto di riflessione, se si considera appunto alcune, prendo la pagina del Messaggero, pagina 9, il stranieri e Movida, il caso Lazio, siamo pronti a richiudere tutto, con l'assessore D'Amato che dice le mascherine vanno usate, rischiamo di finire come la Catalogna, mentre lo Spallanzani testa nuovi tamponi rapidi. Il rischio di una sorpresa c'è, il rischio di una sorpresa, chiamiamola da adesso in poi sorpresa catalana. Ma è un fatto che un mese che in Italia si festeggia, si brinda e si va per piazze e luoghi molto molto affollati, e non c'è neanche la traccia di una catena. Tutti i casi nuovi che noi vediamo sono di importazione, arrivano da fuori, e siccome a questo punto siamo ben allenati, vengono spenti. Curioso, speriamo che duri, ecco, sì. L'unica cosa, speriamo che duri, complice il mese, la fine di luglio, il mese di agosto, potrebbe durare, però questo non ci impedisce di pensare che poi l'autunno, quando cambierà il tempo, le cose possono essere diverse, è meglio essere cauti sicuramente. Paolo, siamo quasi in chiusura, mancano un paio di minuti, vorrei portarti sulla scomparsa di una figura importante per l'editoria, per la cultura ambientale italiana, Giulia Maria Crespi, che è scomparsa ieri a 97 anni, la fondatrice del FAI, fu anche l'editrice del Corriere della Sera. Non ai tempi miei, io l'ho conosciuta bene, siamo stati anche amici, perché Giulia Maria Crespi aveva una singolare abitudine, pur essendo poi entrata nel consiglio d'amministrazione del giornale concorrente La Repubblica, però con il direttore, il gruppo dirigente del Corriere, li convocava spesso e volentieri a colazione a casa sua, nei momenti topici della vita, e dava consigli, insomma, il Corriere era evidentemente ad ogni evidenza rimasto nel cuore, anche se, come tu hai appena detto, si occupava del FAI, delle cose da salvare in Italia, dell'agricoltura, aveva una splendida tenuta, però anche il discorso con lei andava sempre a due momenti dolorosi, perché poi, anche se oggi giustamente i giornali la celebrano, ed era in questo momento doloroso all'inizio degli anni 70, quando fu addirittura, una cosa assurda, accusata di essere l'amante di Mario Capanna, del leader della contestazione a Milano, di essere una granella di sinistra, dichiaratamente di sinistra, mai avuto tentennamenti, antipatia per Craxi, Berlusconi, tutto. Ma veniva accusata di questo, e c'è una macchiolina nel suo percorso che fu lei a imporre a Ottone, o comunque a non sconsigliare Ottone, Piero Ottone, che era il direttore del Corriere della Sera, succeduto a Giovanni Spadolini, di licenziare Indro Montanelli. Il licenziamento di Indro Montanelli nel 1973 fu una pagina, insomma, non divertente nella storia del Corriere, e lei sicuramente soffiò sul fuoco, disse sempre che Ottone aveva fatto bene, lo incoraggiò in quella scelta, e Indro Montanelli, pur nella sua galanteria, la contraccambiò in antipatia. Oggi i ritratti sono molto generosi, giustamente, ripeto, molto generosi nei confronti di Giulia Maria Crespi. L'unico ritratto un po' al vetriolo è quello di Vittorio Feltri su Libero, che ricorda anche di un suo recente incontro con lei, una colazione, perché poi faceva, amava vedere i giornalisti, in cui disse: beh, è facile per lei fare l'ecologista che è ricca. Lei disse sì, che era fortunata, e si salutarono su alla fine di questa colazione con simpatia, ma era una simpatia fredda. Invece sì. Gad Lerner sul Fatto mette anche lui il dito sul fatto che Giulio Maria Crespi irritava per essere la rappresentante di questa Milano radical chic, sì, a cui però invece vanno le simpatie di Gad Lerner. Ecco, io lo metterei fra questi fra questi due estremi. Grazie Paolo Mieri, anche grazie per oggi. No. Ci risentiamo mercoledì. GR24, a tra poco con Maria Latella, i nostri ospiti. Avremo il capo della direzione investigativa antimafia per parlare di Covid e di criminalità organizzata, e poi il vice ministro dell'economia Misiani. A tra poco. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, ed ha una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.